la vita è soltanto una lotta, ma è troppo spesso una battaglia persa. Quanto amore abbandonato negli autobus da questi uomini multicolori, rinchiusi sempre nelle loro celle, senza sapere cosa c'è là fuori. Un grande mondo, sicuramente non bello, ma fatto di briciole e di tanti amori. Un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri furori. Sprecati in un autobus che non ha sosta e non ha fermata. Un viaggio pazzo che non ha meta, non ha ritorno, ma solo andata. E c'è solo l'acqua che può salvarci. Agisce dagli occhi e ci esce dal cielo. Però ti prego, continuiamo a vederci, io ti spoglierei di quel bellissimo velo che ci separa dalla mia vita, che ci separa dalla vita di tutti, come se il mondo fosse un grande freddo, un lago gelato senza frangiflutti. Un grande mondo, sicuramente non bello, fatto di briciole e di tanti cuori, un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri amori. Si lascia fuori dagli autobus, guarda le cic, le sigarette, portate via da questa pioggia insistente, buttate via da queste vite distratte. Io lo sguardo perduto e le costole rotte. Giovedì 21 marzo, come ho già detto, ma lo ribadisco perché l'appuntamento merita assolutamente tutti i tempi. L'omaggio a Claudio Lolli alle 21.30 a Cinema Teatro Galliera, alle ore 21, scusate, è il 21 marzo, il giovedì, quindi un bel inizio in musica per la primavera con questo omaggio a un grande Claudio Lolli. Grazie a Danilo Tomasetta, co-conduttore, amico di Radio Città Fujiko, anche lui compagno di viaggio per la programmazione storica di una radio per la città di Bologna e non solo, è un grande apporto per la cultura musicale, anche in questo caso per la nostra città e non solo. Grazie Danilo e a presto. Allora abbiamo un numero per comunicare, vedo che stanno arrivando diverse telefonate, ma io ribadisco il 333-180-9494 via WhatsApp o via SMS o anche Telegram se volete, per messaggi e co-conduzione sui 103.1, 333-180-9494. Insieme ai saluti alle 8:49 minuti in questa atipica trasmissione del Format Magazine all'interno del Breakfast Club. Yeah. rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, poi caffè e paglia, gli eventi sportivi dell'ultimo weekend con Mingo & Company. Questa la mattinata di lunedì 18 marzo su 103.1. domani in Move to Groove con la Hall of Fame e perché no anche la Hall of Shame, un contenitore di gloria ma a volte anche un attimo di cose di cui non essere proprio orgogliosi, con una selezione sia musicale ma anche cestistica da remoto. Paolo Onofri qui con noi in studio, ci sarà Pietro Rossi domani nel Mood Groove puntuali alle ore 7. Grazie per l'attenzione dal vostro William Piana, servo vostro per la prima colazione, un caloroso abbraccio, un buon lunedì, un buon ascolto sui 103.1. A domani, ciao a tutte, ciao a tutti, buona giornata.